con Patrizia Martello, presidente dell'Accademia Mondiale della Poesia, per presentare la 18ª Giornata Mondiale della Poesia a Verona al Teatro Filarmonico 22 e 23 marzo 2019. Patrizia, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Raccontiamo Grazie. intanto cos'è l'Accademia Mondiale della Poesia. Certo, l'Accademia Mondiale della Poesia è un'accademia che è nata ancora nel 2001 a Verona, sotto l'egida dell'UNESCO, ed è nata proprio per celebrare, come ha voluto l'UNESCO, la Giornata Mondiale della Poesia, che è il 21 di marzo. Naturalmente noi da allora l'abbiamo sempre celebrata in date vicino al 21 di marzo perché preferiamo avere il sabato. Quest'anno sarà il 22 e il 23. Facciamo due giornate perché abbiamo tanti eventi da proporre. Come saranno articolate queste due giornate? Raccontaci un po'. Sì, volentieri. Sono molti eventi, anche molto diversi uno dall'altro, ma il tema conduttore è quello del viaggio. Infatti l'abbiamo intitolata, questa giornata mondiale della poesia, l'abbiamo intitolata Poesia e Viaggio, perché è il 50º anniversario della scomparsa di Jack Kerouac e il libro di Eugenio Montale, Fuori di casa, che sono un po' le icone del viaggio e della poesia. Il 22 di marzo avremo sia il mattino che il pomeriggio, avremo al mattino la premiazione del concorso nazionale di poesia On the Road ed è un concorso nazionale aperto anche alle scuole, ci sarà un'associazione dedicata alle scuole con una giuria specifica. E devo dire che qui abbiamo grande soddisfazione perché molti hanno risposto, molti hanno partecipato e quindi vedremo poi le giurie che premieranno il venerdì 22 mattina. E questa è una cosa molto importante. Io ci tengo molto perché hai contatto con i ragazzi, hai contatto anche con tante persone che hanno l'entusiasmo della poesia e tanti ragazzi appunto oggi hanno veramente l'entusiasmo della poesia, cosa che mi stupisce ogni anno, ma ogni anno torniamo ad avere questo bel riscontro. Nel pomeriggio invece faremo in particolare un evento che si chiama Voci di Donne. Qui l'evento rientra in tutti quegli eventi del marzo, in celebrazione, nella celebrazione dell'8 marzo sostanzialmente. E qui abbiamo voluto invitare delle poetesse che vengono da più paesi del mondo, perché noi cerchiamo sempre di dare un carattere ovviamente internazionale. A questa nostra giornata mondiale e quindi ci sarà una poetessa da Israele, una della Romania, una della Siria, dal Canada e ovviamente dall'Italia. E quindi questo rientrerà nel programma anche del comune, questo sarà appoggiato anche dal comune di Verona nel suo programma 8 marzo femminile plurale. Io credo molto a questo evento Voci di Donne, perché è una visione diversa di quello che può essere la poesia, ma soprattutto l'essere poeti, l'essere poetesse. Ecco, quindi queste donne si confronteranno e penso che verrà fuori un bel dibattito. Sempre pomeriggio poi seguirà la presentazione del libro del professor Nadir Azizà, con Isabella Camera d'Affitto e Patrizia Ippoliti. Nadir Azizà, lo voglio dire perché è importante, è fondatore anche lui con me dell'Accademia Mondiale della Poesia nel 2001. È, diciamo, un poeta che vive a Parigi e ha avuto l'input dall'UNESCO per la costituzione dell'Accademia. Ci ha sempre seguito da vicino. È sempre stato un po' il nostro riferimento e quindi è presente anche lui e questo sono molto contenta che lui continui a seguire questa nostra iniziativa. Ecco, alla sera, diciamo alla fine del pomeriggio, alle 19, abbiamo previsto poi uno spettacolo di poesia, di musica e di danza che si intitolerà Abbiamo parlato di vita e d'amore con Alfonso De Filippis. E quindi diciamo è per chiudere la giornata anche con un momento più di spettacolo. E questa è la giornata del 22 di marzo. Il 23 marzo ci sono altri eventi, anche questi molto molto particolari, ritengo di un grande livello culturale. Al mattino, premettendo che ogni anno l'Accademia Mondiale della Poesia si riscontra culturalmente e poeticamente con uno dei paesi del mondo, quest'anno ci sarà la poesia libanese. Quindi un incontro con la poesia libanese, con poeti che arrivano dal Libano, appunto, e che ci porteranno le loro poesie attuali con le letture di Letizia Bravi. Ecco, seguirà poi, quindi vedi che sono eventi anche molto, molto diversi, Sì. diversificati e quindi possono anche, spero, incontrare l'approvazione del pubblico. Perché poi avremo comunque, dopo questo, alle 12:15, una cerimonia di consegna del premio Catullo. Il premio Catullo è un premio che viene dato ogni anno con il Comune di Verona e quest'anno verrà dato a Gaston Belmar e Enrizo Garib. Gaston Belmar è un poeta canadese, che è anche molto vicino all'Accademia e era peraltro. Organizza un festival tra i più importanti al mondo, che è il Festival di Trois-Rivières in Canada, e abbiamo veramente l'onore di poterlo ospitare e poterlo premiare. Nel pomeriggio alle 16 invece abbiamo un incontro molto importante e qui ha un aspetto rilevante il collegamento che abbiamo con la Commissione europea. Abbiamo voluto fare un evento specifico che si chiama Viaggio poetico verso una nuova Europa. L'incontro sarà con il poeta e filosofo Marco Guzzi, che credo tutti conoscano, e condotto da Michele Francesco Afferrante, che anche qui è notissimo perché ha seguito diciamo, costruito molte, molte trasmissioni della nostra RAI. E questo è un evento particolare, sarà dalle 16 alle 17. Alle 17 continuiamo con quello che è una tavola rotonda proprio su poesia e viaggio. Anche questo è un evento che noi ripetiamo ogni anno, perché ogni anno cerchiamo di mettere al tavolo più poeti di vari paesi che dibattono su un tema. Ecco, proprio perché la nostra indole, diciamo, la nostra natura è quella di un'accademia, quindi è anche giusto approfondire delle tematiche in modo da studiosi, diciamo così, ma questo sarà molto, molto interessante, ritengo, e anche molto leggero, cioè è sì un argomento trattato in modo accademico, ma anche un argomento che può essere seguito da chiunque perché è sicuramente trattato in modo più leggero, avendo anche l'introduzione di qualche flash di film che trattano di viaggi. Avremo più interventi, se vuoi te ne posso dire qualcuno che è Sì, importante sì. ricordare, Sì. ecco, perché avremo Adriana Deverini su Eugenio Montale. Leopoldo Carra sulla Beat Generation con la proiezione di alcune sequenze del film Easy Rider. Susanna Tartaro sul poeta giapponese Santoka. Paolo Lagatti, che è anche un bravissimo critico letterario, componente del nostro consiglio direttivo, che parlerà di Attilio e Bernardo Bertolucci, che sono sempre suoi amici e con cui ha seguito più aspetti critico-letterari. E avremo anche qui la proiezione di alcune sequenze del film Il tè nel deserto di Bernardo Bertolucci. Ci sarà poi Daniel Kundera, Il Mariage di Gregori Corso. E altre letture, poesie e prose di alcuni poeti, fra cui Claudio Damiani e Paolo Ruffilli, anche loro importanti poeti italiani, conosciuti a livello internazionale, che anche loro fanno parte del consiglio direttivo dell'Accademia. Ecco, mi piace ricordarlo perché voglio dire grazie a loro, cioè a Paolo Ragazzi, Claudio Damiani, Paolo Ruffilli, siamo riusciti a individuare il tema e a raccogliere la disponibilità dei poeti per tutti questi eventi. Mm-hmm. Ecco, quindi devo ringraziare loro anche per questo contributo che hanno dato. In chiusura del 23 avremo, sento, Michele Francesco Afferrante, che aveva tenuto la conversazione, che aveva condotto, diciamo, l'incontro con il poeta Marco Guzzi, e che parlerà di un poeta, Tarkovsky, poeta dell'immagine in movimento, anche qui con la proiezione di alcune sequenze del film Lo Specchio. Ecco, questo è, diciamo, una credi che sono i nostri eventi del 22-23 di marzo. L'organizzazione, come puoi capire, è stata anche importante, pesante, qui anche qui permettimi di ringraziare Laura Truisi, che ha sempre seguito il tutto per l'Accademia. Io mi auguro che tutto possa incontrare il riscontro positivo del pubblico, come sempre è stato nelle altre giornate. Abbiamo cercato, come vedi, di avere grandi differenziazioni di eventi, di modo che un largo spettro possa essere coperto in queste due giornate. Allora, nel salutarci, ci lasci anche tutti i riferimenti internet per seguire il programma. Sì, certo. Allora, il nostro sito che è www.accademiamondialepoesia.com. Siamo su Facebook, su Twitter, su Instagram, ecco, ci potete trovare comunque. Ricordiamo la 18ª giornata mondiale della poesia a Verona, al Teatro Filarmonico, 22 e 23 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento a Patrizia Martello, presidente dell'Accademia Mondiale della Poesia. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie davvero a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, arrivederci.